Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Sai Federico, del Barolo che mi manda le mail. Ma usa anche WhatsApp? No, solo mail. Su WhatsApp chatto con il verdicchio. Forse in futuro parleremo con le viti. Ma che i vigneti siano già in rete, questa è una realtà e ne parliamo con Daniele Trinchero. Benvenuto Daniele Trinchero. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Lei è fondatore degli XM Labs del Politecnico di Torino, ingegnere, e ha portato, questa è un po' la sua caratteristica, il wifi, la connessione tra i filari di un vigneto. Mancava solo lì. Beh sì, devo dire che effettivamente essendo piemontese, di collina tra l'altro, io sono originario del Monferrato, era un atto dovuto. E a cosa serve? Beh allora noi utilizziamo in realtà non il wifi, le comunicazioni wireless in una declinazione molto particolare e molto specifica per le applicazioni di agricoltura sostenibile, le utilizziamo le comunicazioni wireless per raccogliere dati in vigna, elaborarle, trasferirle su internet e mettere a disposizione degli agronomi che poi dopodiché potranno fare sia in studi statistici, analizzarli, ma soprattutto individuare le periodicità esatte per i trattamenti in vigna, quindi risparmiare sui trattamenti, eliminare per quanto possibile l'utilizzo della chimica, eccetera, eccetera. Ok, allora le applicazioni sono chiare. Adesso andiamo con ordine. Come diavolo funziona? E cosa abbiamo lì nel vigneto? Beh, allora, innanzitutto noi ci siamo inventati una cosa. Normalmente i monitoraggi vengono fatti con le stazioni meteo. Ultimamente le stazioni meteo vengono collegate anche alla telefonia mobile e quindi già entrano in internet. Noi abbiamo fatto una cosa, abbiamo dematerializzato la centrale meteo, l'abbiamo scomposta in tante parti, abbiamo divisa in piccoli sensori, ogni sensore è dotato di un trasmettitore wireless a vita indipendente, tra l'altro funziona con una batteria che può durare anche fino a 10 anni, con dimensioni assolutamente contenute, trasferisce queste informazioni ad un gateway posizionato in vigna e il gateway poi dopo, che è un dispositivo di interfacciamento a internet, riporta le informazioni su internet. Quali informazioni, quali sono i parametri? Beh, i parametri fisici fondamentali per l'agronomo, quindi da tutti i dati meteo, vento, pioggia, umidità, temperatura, per arrivare a dei parametri più specifici della coltivazione, ad esempio le bagnature delle foglie, oppure i parametri di esposizione al sole, oppure ancora l'umidità del terreno. Noi abbiamo fatto una cosa in più, perché abbiamo cercato di utilizzare la nostra stessa tecnologia, che normalmente nell'ambito dell'internet delle cose è fatta per portare dati di misura molto contenuta, noi l'abbiamo addirittura perfezionata per portare informazioni raccolte da telecamere ad alta definizione. E questo ci dà un aiuto enorme perché abbiamo la possibilità di correlare in tempo reale il dato meteo con ciò che effettivamente avviene in vigna, sia dal punto di vista della visione generale, ma anche dei particolari. Cioè, si vede proprio la maturazione dell'uva. Ecco, ma se pensiamo a una collina sulla quale appunto c'è tutto un vigneto, questa collina è divisa in quadrotti e voi avete i dati dai singoli quadrotti, quanto sono grandi, cioè c'è la possibilità di avere, ci sembra di capire, un meteo così fine? Beh sì, allora noi abbiamo lavorato in due direzioni, una era quella di minimizzare i costi di produzione per poter massimizzare il numero di sensori applicabili. Chiaramente quanto più basso è il costo è tanto più alto il numero, certo. Quindi teoricamente io li posso anche distribuire in un modo molto capillare, questo da un lato. Dall'altro, sapendo benissimo che nelle nostre colline la copertura, diciamo, di internet di tipo tradizionale non è che sia così sviluppata, molte zone sono al di fuori della copertura 3G, noi ci siamo anche preoccupati di avere delle comunicazioni che possono raggiungere grandi distanze. Gli ultimi esperimenti che stiamo compiendo stiamo passando dai 5 ai 20 chilometri. Quindi teoricamente possiamo avere sensori che sono assolutamente distribuiti su superfici enormi e ciononostante comunicano tra di loro. Ecco, il viticoltore riceve tutte queste informazioni ed è in grado di gestirle in un computer, ecco, in un cruscotto, chiamiamolo così, e può ottimizzare appunto, come come lei diceva, l'irrigazione piuttosto che il concime e così via. Però quello che vogliamo capire è, funziona? L'avete già applicato? Mi pare proprio di sì, anche su dei vitigni anche di gran pregio. Beh, sì, noi abbiamo la fortuna di avere dal 2013 un campo sperimentale attivo, ormai sono 2 anni e mezzo, a Barbaresco. Stiamo per partire con un campo che avrà si svilupperà tra le colline di Barolo e tra l'altro è proprio quello dove testeremo i collegamenti a lunghissima distanza. Beh, quindi stiamo parlando di vitigni anche diciamo di un certo livello. Per banco. Certo, e poi dal maggio di quest'anno siamo presenti anche a Montalcino e Montepulciano, quindi devo dire che non ci siamo fatti mancare le principali. Il top del top, ecco. Però insomma funziona, quello che vorrei sapere è la qualità del vino, ne giova? Probabilmente sì. E i coltivatori che magari sono molto tradizionalisti invece hanno capito che li porta avanti? Premetto con una battuta, mi hanno fatto assaggiare il vino prodotto e devo dire che io l'ho trovato non solo buono, stratosferico, ma io non faccio testo. Lei non fa testo di parte, certo. E allora, sicuramente quello che emerge dai primi dati che abbiamo rilevato è che questa capillarità di misura permette effettivamente di dosare i trattamenti e di farli soprattutto al momento giusto. Quindi riusciamo a garantire un bassissimo impatto ambientale. E dopodiché ovviamente sapete benissimo che portare tecnologia in un ambiente tradizionale è complicato, ma noi devo dire che con tutti i viticoltori con cui abbiamo operato, dall'inizio fino a questo momento abbiamo trovato un grande interesse e una grande disponibilità proprio ad aiutarci nel perfezionare un prodotto sostenibile. Bisogna specificare che sono anche case vitivinicole che hanno una certa tradizione alle spalle, ecco, non sono proprio dei giovanotti quelli con cui avete lavorato e quindi insomma bisogna provarci. Assolutamente. Va bene, allora siamo tutti d'accordo. Grazie davvero Trinchero, buon lavoro nel vigneto. Grazie a voi. Ma poi secondo te i grappoli si sceglieranno una password? Che se non sai, niente vino. Va bene, con i vitigni in rete, Foodlab chiude qui per oggi. Alla prossima, ciao!